Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca dell'Associazione Culturale Energicamente, che ormai conoscete, e questa sera vi parlerò di sonno e respiro. Beh, tutti sappiamo quanto importante, quanto fondamentale sia riposare e recuperare le forze per essere pronti ad affrontare un'interrogazione, una performance sportiva, un esame universitario o un impegno di lavoro importante. Purtroppo è altresì vero che molti di noi non dedicano la sufficiente attenzione, ma soprattutto tempo, a questa attiva inattività che è il riposo notturno. Se già ansia e stress da performance incidono negativamente sul recupero dallo sforzo, sia esso fisico che mentale, pensate che cosa è costretto a subire il nostro organismo quando a questi fattori va ad aggiungere anche il fatto di non aver riposato bene. Oltretutto, un sonno scarso o insufficiente comporta anche un abbassamento delle nostre difese immunitarie, rendendoci così più vulnerabili nei confronti di influenze, raffreddori e in parte anche di infezioni. Infatti, la carenza di sonno aumenta i livelli di cortisolo nel sangue, che a sua volta inibisce la produzione delle cosiddette fosfolipasi, cioè molecole mediatrici delle infiammazioni, senza le quali per il nostro corpo è molto più difficile far fronte ad infezioni batteriche e virali. Pensate che uno studio americano condotto su un campione di giocatori di basket ha mostrato che dormire un numero adeguato di ore a notte in maniera regolare e costante per 7 giorni consecutivi ha portato ad un miglioramento delle loro prestazioni in campo, in particolar modo nella velocità di sprint di corsa e nelle precisioni di tiro a canestro. Simili studi sono stati condotti anche su nuotatori di altissimo livello in preparazione alle Olimpiadi di Rio, in vista delle quali vi era l'esigenza di adattare l'organismo a clima ed orari delle gare che si sarebbero svolte in Brasile. Ebbene, molti atleti di diverse nazionalità avevano seguito percorsi di preparazione che comprendevano allenamenti anche in orari notturni. Purtroppo però, sulla scorta degli studi che sono stati effettuati su questi atleti, il sonno rilevato negli atleti stessi era risultato inferiore al limite fisiologico richiesto dall'organismo, con conseguenze pesantissime per gli atleti medesimi, che avevano visto una diminuzione della loro forza fisica, un'alterazione dell'umore e un incremento anche della depressione, della tensione nervosa, della confusione mentale e financo della fatica e della rabbia. Se questo è vero per gli atleti, lo stesso però può dirsi per le persone normali. Un atleta infatti si allena dalle 6 alle 8 ore al giorno, ma non c'è molta differenza fra quello che fa un atleta professionista con rispetto ad uno studente universitario che magari deve seguire lezioni e studiare, o a chi ha ritmi di lavoro serrati con livelli di stress molto alti e per di più distribuiti lungo tutta la giornata. Tutti noi, infatti, qualsivoglia tipo di attività espletiamo durante la giornata, abbiamo bisogno di riposare un numero di ore che i professionisti del settore indicano almeno in 6 a notte, definite ore di qualità, corrispondenti a 7 ore di cosiddetta quantità, calcolate e calcolabili dal momento in cui ci corichiamo al momento in cui ci alziamo. Che cosa possiamo fare quindi per addormentarci prima e dormire anche meglio, riposando e recuperando forze e lucidità? Beh, molto spesso basta seguire delle metodologie semplici e naturali, senza alcun tipo di forzatura, e una di queste è quella che andiamo adesso a descrivere, che è un tipo di respirazione particolare, cosiddetta frazionata. Per eseguirla, senza appunto alcun tipo di forzatura, è necessario essere sdraiati supini a letto, in posizione tranquilla, comoda, rilassata, con le braccia lungo i fianchi. È necessario anche, per predisporsi meglio al sonno, mantenere gli occhi chiusi e inspirare ed espirare dal naso seguendo il seguente schema. L'inspirazione dovrà essere lunga, profonda e continua, partendo dalla pancia, riempiendo la parte addominale, in seguito la parte toracica ed in seguito ancora quella clavicolare alta, e a seguire l'espirazione dovrà essere invece frazionata, ovvero sia si dovrà svuotare di aria in maniera inversa all'organismo, partendo dalla parte alta clavicolare verso la pancia per 2 secondi inizialmente, per poi fermarsi e restare in apnea, quindi trattenere il respiro per altri 2 secondi, e poi di nuovo espirare per altri 2 secondi e trattenere nuovamente il respiro stesso per altri 2, fino allo svuotamento totale dei polmoni, senza forzature. L'espirazione frazionata quindi prevede l'intervallare della fuoriuscita dell'aria dai nostri polmoni con 2 secondi di apnea e quindi di ritenzione del respiro. Mi raccomando, non di più. Questo tipo di sequenza, laddove proposta per almeno 5 volte nell'arco di una serata, porta ad una serie di benefici importantissimi che possono essere strategicamente utilizzati dalle persone a seconda delle loro necessità. Fra alcuni degli studi condotti su persone che si sono sottoposte volontariamente a delle sperimentazioni in questo campo hanno dimostrato che tale tipo di pranayama, e quindi di respirazione cosiddetta frazionata, porta ad una normalizzazione della tensione arteriosa e ad un effetto bradicardizzante, ovvero sia ad una riduzione della frequenza cardiaca, che già di per sé rappresenta un'ottima premessa per iniziare a dormire bene. Naturalmente tutti questi consigli che vi diamo dovranno essere applicati o potranno essere applicati soltanto previa consultazione con il vostro medico di base, per evitare che si producano delle conseguenze sul vostro organismo che lo stesso non è in grado di sopportare. Per questa sera è tutto, e nel ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato e nel ringraziare Radio Big World, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti di Energicamente. Innanzitutto il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra mail info@energica-mente.it ed il nostro numero di telefono. Io sono Francesca e il mio numero è 340-2345-340 e lavoro a Firenze. Il numero di Franco 329-8989-669, che lavora a Roma, ed il numero di Elisa, che lavora sempre a Firenze, 339-3860-123. Buonasera e a risentirci alla prossima puntata.